good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento Lesbiche Romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Quella che ascolterete stasera è la nostra 202esima trasmissione. Oggi in studio siamo io, Caterina, e con me c'è Ceppina. Personalmente sono molto contenta di essere di nuovo qui stasera perché per una serie di motivi, sicuramente non per mia volontà, sono stata lontana per più di 2 mesi. Francamente stavo andando in crisi di astinenza e non so, per esempio, pur non fumando, mi mancava quel dolce puzzo di sigaretta che si respira qui dentro la radio, oppure mi mancavano le bottiglie d'acqua condivise con le compagne quando l'arsura del troppo parlare ti assale. Cominciavano a mancare le crisi di panico perché le apparecchiature non funzionano, ma venendo qui oggi ho avuto una meravigliosa sorpresa, è cambiata un po' di attrezzatura, quindi va benissimo. E allora, per tutte queste motivazioni e non riuscendo più a resistere oltre, ho deciso di tornare, quindi eccomi di nuovo qui. Comunque, a parte gli scherzi, quando si è abituate alla condivisione, quando si crede nella validità del dialogo, quando è forte la voglia di fare qualcosa, quando si ha la fortuna di poter partecipare per affinità ad un progetto, quando si possono utilizzare spazi liberi, è difficile non sentirne la mancanza. Sono queste le vere ragioni che rendono a me, ma a tutte noi, piacevole e significativo essere al martedì libero ed autogestito qui a Radio Onda Rossa. Bene, tralasciamo per un attimo queste smancerie ed iniziamo descrivendo un attimino la trasmissione di oggi. Vi parleremo di una donna vissuta a cavallo tra la fine dell'Ottocento, primi Novecento, che si chiama Marie Equi. Faremo una recensione di un nuovo libro uscito da poco di Lola Vanguardia, daremo notizia di una nuova pubblicazione di Delia Vaccarello, poi qualche appuntamento qua e là e come al solito ascolteremo della buona musica di donne. Ho detto che avremmo ascoltato dell'ottima musica, quindi cominciamo con una bellissima canzone e si intitola Sei nell'anima della grande Gianna Nannini, naturalmente. Nell'anima resta indietro non è tutto falso e inutile. Capirai, lascio andare i giorni tra certezze e sbagli. Strada stretta, stretta, fino a te. Allora, prima di passare la parola a Pina, che comincerà con il brano che deve leggere, volevo ricordarvi il numero della radio al quale potete contattarci, che è 06 49 17 50, ed il nostro cellulare sul quale inviare i messaggi, che è 338 41 46 682. Passo la parola a Pina, vai. Ciao, grazie Kate. Allora, buonasera a tutti. Non si sente, Pina. Buonasera a tutti. Apri il microfono, vedi se è aperto. Allora, ciao e buonasera a tutte e bentrovate. Come voi sapete, il CLR è impegnato nella ricerca delle donne che hanno fatto la storia e in questo ambito cura la rubrica Donne e Storie. Ebbene, questa sera parleremo di Marie Equi, donna di forte temperamento, come vedremo, e che ha avuto un ruolo importante nella conquista dei diritti delle donne anche come lavoratrici. Però noi non ci dilungheremo nella descrizione, perché passeremo direttamente a leggere quanto è stato prodotto sull'argomento da Rosanna Fiocchetto ed è stato poi pubblicato sul sito dell'Associazione Lesbica di Bologna Fuoricampo. Il titolo della pubblicazione è Marie Equi, una vita non ortodossa. Allora, Marie Diana Equi, nata il 7 aprile del 1872, fu una delle animatrici del movimento radicale americano della prima metà del XX secolo. Visse sin in fondo e compattivamente la sua identità di lesbica, femminista, medica, anarco-socialista. Nata a New Bedford nel Massachusetts, da padre italiano e madre irlandese, trascorse la gioventù in Italia con il nonno paterno. A causa poi di una tubercolosi che la spinse a cercare per la guarigione un clima più favorevole, trascorse la gioventù in Italia. Nel 1893 si trasferì nell'Oregon per convivere con la sua amante Bess Holcomb, che aveva ottenuto un incarico di insegnamento ad Dallas. La sua lunga relazione con Bess ebbe tutte le caratteristiche di quello che veniva definito un matrimonio bostoniano, tranquillo e accettato dal contesto sociale. Marie Equi però era tutt'altro che mite e tranquilla. Il 21 luglio 1893 un giornale locale, The Times Mountain, pubblicò un articolo sullo scontro che Marie, chiamata Miss Aqua, aveva avuto con il reverendo Orson Taylor, datore di lavoro di Bess, per una questione di paga non corrisposta all'amica. Secondo il giornale, Marie aveva minacciato Taylor di frustrarlo, costringendolo a barricarsi nel suo ufficio. L'articolo, commentando le rivendicazioni salariali di Bess, descriveva così l'azione di solidarietà di Marie. La sua personale amica e compagna è Miss Aqua, una giovane e coraggiosa signora, la quale dice che non resterà docilmente a guardare Miss Holcomb venire truffata di $100 del suo salario e che prenderà a frustrate Orson Taylor, anche se questo dovesse essere l'ultimo atto della sua vita. La simpatia della folla era con la giovane signora. E se ella avesse frustrato il reverendo gentiluomo, la multa sarebbe stata pagata in 5 minuti. Miss Holcomb è una giovane signora colta e ineccepibile ed è tenuta in grande stima nella comunità. Miss Aqua è assai affezionata a lei e la loro amicizia arriva all'adorazione. Anche il resto della stampa locale si occupò di quanto era accaduto, sottolineando in modo energico in cui Marie aveva reagito al torto subito dalla sua compagna. Infatti l'altro giornale, The Dallas Chronicle, riferì: con gli occhi fiammeggianti è entrata nell'ufficio privato di Mr. Taylor, armata di un frustino, e ha chiesto soddisfazione. Egli ha affermato di ignorare la natura della richiesta e ha chiuso fuori l'intrusa, che era anche accompagnata da Miss Holcomb. Per circa un'ora Miss Aquia ha camminato su e giù per la strada, incurante della presenza di un centinaio di persone che si godevano lo spettacolo e facevano ogni genere di osservazioni. In seguito all'episodio, Taylor denunciò Marie, ma ancora prima che l'ingiunzione le venisse consegnata, secondo il Chronicle, lei mise in atto la sua minaccia, picchiando il reverendo in un locale pubblico e costringendolo alla fuga. Inutile a dirlo che subito dopo, mentre Taylor cercava scampo all'aperto e lei lo inseguiva con il frustino in mano, fu arrestata dallo sceriffo. L'incriminazione per aggressione venne poi ritirata in seguito al pagamento di una cauzione di $250. Informando sulla vicenda, il giornale The Dallas Chronicle insisteva sulla relazione tra le due donne. Sono amiche di lunga data, c'è stato un ardente affetto tra loro sin da quando erano entrambe studentesse al Wellesley College. La loro singolare infatuazione, si dice, è stata la causa della rottura quasi totale tra Miss Holcomb e la sua famiglia. Suo padre è notoriamente benestante, ma si è rifiutato di fornire una casa a Miss Aquia, dietro sollecito di Miss Holcomb. Da allora esse sono state costantemente l'una in compagnia dell'altra e si trovano a The Dallas da oltre un anno. Recentemente Miss Holcomb ha preso in affitto una fattoria dove entrambe vivono, molto ammirate per il loro coraggio. È evidente che tutte e due hanno una buona dose di tale qualità, sebbene la manifestazione di essa per la strada oggi non possa essere seriamente encomiata. Comunque lei è qui, ne è uscita da regina e le offerte di aiuto finanziario sono numerose. Un giornalista del Times intervistò le due donne nella loro fattoria, ubicata a circa 3 chilometri a ovest della cittadina. Bess negò seccamente le chiacchiere di cattivi rapporti con la sua famiglia riportata da The Chronicle. L'articolo aggiungeva: le signore non desiderano diventare oggetto di pubblica critica, ma non avendo parenti maschi ad ovest delle Rocky Mountains, sono determinate a proteggersi da sole nel miglior modo possibile. nel senso più pieno del termine e pretendono la considerazione che dovrebbero ricevere da ogni gentiluomo. Desiderano di essere lasciate in pace nella loro casa isolata e resteranno nel futuro amiche indissolubili che niente può separare. Il giornalista le descriveva sistemate in modo molto confortevole nella loro accogliente casetta, dove spiccava un tavolino coperto da bei mazzi di fiori mandati dai loro ammiratori in città. Fra gli omaggi c'era anche un abito per sostituire quello di Marie strappato durante l'alterco con Taylor. E quanto a lei, il reporter riferiva che Miss Equia si è ripresa dalla sua agitazione ed è di umore molto loquace. In un breve ritratto evocava una brunetta di forme sottili e di temperamento sanguigno, malgrado la sua fragile salute, che difende altrettanto prontamente la reputazione di un'amica come la propria. Gioviale, è un'incantevole conversatrice, e il suo linguaggio denota un simpatico e preciso uso delle parole. La solidarietà della comunità locale nei confronti di queste due abitanti poco ortodosse, sottolineata da tutti i giornali, può sembrare strana, insieme all'atteggiamento clemente dello sceriffo, ma è spiegabile con il fatto che Marie Equi aveva agito a nome di molti una crescente ostilità verso il reverendo Orson Taylor, il quale, 3 giorni dopo la sua flagellazione ad opera di Marie, venne incriminato da un tribunale di Portland per corruzione e peculato ai danni della comunità in uno squallido affare immobiliare. Quindi anche nel 1893 succedevano queste cose. La lesbica giustiziera era stata quindi particolarmente apprezzata in un ruolo che diventerà una costante nella vita di Marie. Il giusto salario di Bess non venne rimborsato dalla direzione della scuola, ma gli abitanti di The Dallas fecero una colletta e regalarono la somma alle due donne. Pochi anni dopo l'incidente, Marie e Bess si trasferirono a San Francisco, stanche della dimensione bucolica di 2 cuori e una capanna. Bess trovò di nuovo lavoro come insegnante e Marie si iscrisse all'università. Tornò poi a Portland per diventare la prima donna laureata in medicina all'University of Oregon Medical School nel 1903. All'inizio lavorò duramente nelle zone rurali dell'Oregon, spostandosi a cavallo per prestare assistenza medica agli indiani e ai contadini. Nel 1906 organizzò i soccorsi medici dopo il terremoto e l'incendio di San Francisco, mobilitando i volontari del suo stato, una iniziativa umanitaria per la quale le venne attribuito uno speciale riconoscimento dall'esercito degli Stati Uniti. Nello stesso anno assunse una giovane assistente medica, Harriet Speckhart, con la quale cominciò un rapporto che durò per oltre 20 anni. Per qualche anno Marie e Harriet abitarono in un albergo, il Nortonia Hotel, poi si trasferirono in varie case in affitto e in altre pensioni di Portland. La ricca famiglia di Harriet, preoccupata della relazione, assunse un investigatore privato per indagare su Marie e cercò in tutti i modi di interromperla, minacciando di diseredare la ragazza. Harriet scelse di restare con Marie, condividendo lavoro e sacrifici e anche rischi. Infatti, in quel periodo, le due compagne si impegnarono insieme a Ruth Cohen Barnett e a pochi altri medici progressisti nell'apertura di una clinica dove le donne povere potevano abortire in tutta sicurezza e gratuitamente. Aderirono inoltre al movimento di lotta delle lavoratrici, partecipando nel 1913 al picchettaggio della fabbrica Oregon Packing Company e furono arrestate dalla polizia con le operaie. Marie, che stava curando una delle manifestanti colpite dalla brutalità degli agenti, venne a sua volta ferita da un poliziotto a cavallo, riportandone danni alla schiena. L'aggressione la spinse, da quel momento in poi, ad unirsi alla causa dell'anarchia e della lotta contro il capitalismo, aderendo all'organizzazione Industrial Workers of the World. Presto ne diventò una figura amata e rispettata. 2012, dopo una lunga campagna nel corso della quale vennero presentati 5 emendamenti costituzionali, le donne dell'Oregon conquistarono il diritto di voto e il diritto di far parte di una giuria. Marie Equy fu tra le prime a registrarsi per quest'ultimo diritto civile, insieme ad un gruppo di attiviste. Vari documenti fotografici testimoniano lo storico evento che pose fine alla discriminazione denunciata dalla scrittrice Susan Glaspell nel suo romanzo A Jury of Mare's Peers. Nel 1916 Marie adottò una bambina e la allevò insieme ad Harriet. La piccola Mary adorava le sue due madri e le chiamava Ma e Da. Nello stesso anno Harriet sposò un membro del Workers of the World, Tom Morgan, ma divorziò improvvisamente da lui 2 mesi dopo, adducendo motivi di salute. Probabilmente la decisione del matrimonio era legata più alla preoccupazione per la crescita della bambina, ma con ogni evidenza il rimedio trovato si rivelò peggiore del problema. Nell'organizzazione dei lavoratori il lesbismo di Marie non era un segreto per nessuno, ma in quel periodo anche il Dipartimento di Giustizia americana, attualmente FBI, cominciò ad interessarsi alla vita personale di Marie Equy a causa delle sue opinioni anarchiche e della sua crescente radicalizzazione politica, che l'aveva resa una minaccia per molti esponenti dell'establishment. Nello stesso 1916 aveva infatti aderito all'Unione Americana contro il militarismo e aveva partecipato a molte marce pacifiste. Alla fine dell'anno venne di nuovo arrestata, questa volta insieme a Margaret Sanger, una nota sostenitrice del controllo delle nascite, con la quale collaborava strettamente e che divenne una delle sue più intime amiche. E anche qualcosa in più. In una lettera del 20 ottobre 1916 Margaret le scriveva: «Mia dolce, dolce ragazza, ti amo con un'estasi e una comprensione di spirito che solo tu mi hai dato con l'autentica luminosità e il fluire del tuo intelletto. Le mie braccia sono intorno a te, bacio la tua dolce bocca in resa assoluta». Anni dopo, depositando questa lettera nel suo fondo librario allo Smith College, Margaret vi annotò a matita una descrizione di Marie: un'anima ribelle, generosa, coraggiosa, ma così radicale che era quasi una fuoricasta. Catturava all'arrivo ogni donna conosciuta che venisse a Portland. La sua reputazione era di lesbica, ma per me era come un falco schiacciato per aver affrontato la tempesta e le intemperie e che aveva bisogno di tenerezza e amore. Mi è sempre piaciuta Marie. Durante la manifestazione che portò all'arresto di entrambe, Marie sventolava uno striscione nel quale esortava gli uomini a non arruolarsi nell'esercito. Fu accusata di sedizione a norma dell'Espionage Act, recentemente approvato, e che venne utilizzato anche contro molti altri che si opponevano al coinvolgimento americano in una delle più sanguinose guerre europee. La repressione delle proteste contro la guerra fu uno dei più violenti attacchi alla libertà civile negli Stati Uniti. Parecchi dissenzienti vennero deportati. I politici e gli uomini di potere chiamarono a collaborare alla repressione anche il Ku Klux Klan nel ruolo di vigilantes. Il presidente Wilson, oppositore del movimento di liberazione delle donne, fu particolarmente spietato nei confronti delle femministe che osavano mettere i bastoni tra le ruote della sua macchina da guerra. Il 31 dicembre 1918 Marie venne processata, dichiarata colpevole e condannata a 3 anni di prigione da scontare nel carcere di San Quintino in California. La condanna di Equy per sedizione venne comminata in base all'Espionage Act, che proibiva la critica al governo degli Stati Uniti, al suo esercito, alla sua bandiera, alla sua marina o alla sua uniforme. Durante il processo il pubblico ministero presentò le prove del suo lesbismo nel tentativo di dipingerla come moralmente corrotta, definendola una donna senza sesso. Equy pretese le sue scuse, contestando anche il suo diritto di giudicarla. L'agente speciale William Byron, del Dipartimento di Giustizia, convocato a testimoniare, la chiamò un'anarchica, una degenerata e un abortista. Mentre si trovava in prigione, la sua amica Ruth Cohen Barnett si prese cura dei suoi pazienti. Marie le chiese anche, nel primo Natale passato in carcere, di comprare regali per le altre detenute e di spedirle a San Quintin. Sì. Nel corso della sua detenzione, la sua corrispondenza personale venne letta e copiata dagli agenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Copie delle sue lettere si trovano ancora oggi nei fascicoli conservati dagli archivi nazionali di College Park nel Maryland. Di particolare interesse per il Dipartimento di Giustizia, che se ne avvalse per le sue indagini persecutorie, furono gli sforzi fatti dalle amiche di Equi perché venisse amnestiata. Edgar Hoover, che era assistente direttore dell'ufficio di investigazione, ne fece menzione ad un suo superiore in un rapporto datato 29 aprile 1921, osservando anche che Equi era associata con Elizabeth Gurlen Finn, Anita Whitney e Emma Goldman ed era un abortista di professione. Mentre Marie si trovava in carcere, il suo avvocato ricorse in appello e cercò invano di farla prosciogliere dalle accuse, richiamandosi al quinto emendamento della Costituzione americana ed accusando esplicitamente il governo di tirannia, ma riuscì soltanto a far abbreviare la sua pena con un condono. Le lettere dal carcere di Marie a Harriet rivelano tutta la sua ansia per la separazione da lei e da sua figlia. Harriet si era trasferita con la bambina nell'Oregon, dove continuarono a vivere per la stabilità della piccola, anche dopo che Marie venne rilasciata in libertà vigilata. Harriet morì il 15 maggio 1927 e la giovane Mary Equi tornò a vivere con la sua Marie a Portland, nella casa al 1423 di Hall Street. La sua altra madre sicuramente la ispirò dal punto di vista del coraggio e dell'indipendenza. Dal 1928 al 1936 Marie visse con Elizabeth Gurley Finn, indipendentista irlandese e militante comunista. Marie la curò, risanandola completamente dai postumi di un attacco di cuore che Elizabeth aveva avuto durante la campagna per la difesa degli anarchici Sacco e Vanzetti. Elizabeth, sin dal 1905, aveva organizzato scioperi imponenti come quello del pane e delle rose del 1912 per la riduzione dell'orario di lavoro. Per lei, soprannominata la ragazza ribelle, così è intitolata anche una sua autobiografia, erano state scritte anche varie canzoni. Nel 1920 aveva fondato, soprattutto a sostegno degli immigrati, l'Unione Americana per le Libertà Civili, ACLU, ed era una convinta internazionalista. Il suo rapporto con Marie era quello di profonda solidarietà tra due combattenti irriducibili, come entrambe furono fino a tarda età. Ma Elizabeth, senza il fondamentale e quotidiano aiuto di Marie in quegli anni, non avrebbe potuto proseguire il suo impegno. Nel 1934 Equi contribuì ad organizzare anche economicamente lo sciopero degli scaricatori di Porto e continuò il suo lavoro antagonista nonostante le intimidazioni e il controllo che venivano esercitati su di lei. La sua esistenza personale, infatti, venne spiata dagli investigatori del Dipartimento di Giustizia americano per tutta la vita. Nei suoi ultimi anni Marie ricordava come lei e sua madre venivano incessantemente pedinate nelle strade di Portland. I suoi amori lesbici erano anch'essi noti agli investigatori, che sapevano tutto dei suoi rapporti con l'irlandese indipendentista Kathleen O'Brien e con altre. Marie Equi morì il 13 luglio 1952, ottantenne, nell'hospital di Portland. Equi fu apertamente lesbica durante tutta la sua vita, ma dopo la sua morte prevalse il silenzio sul suo lesbismo, che venne cancellato dalla storia. Finché nel 1983 Nancy Krieger, ricercatrice dell'Università di Washington, scoprì negli archivi nazionali documenti che comprovavano la sua relazione con Harriet Speckhardt e ricostruì l'intera vicenda della regina dei bolscevichi. Il suo lavoro ha contribuito a restituire a Marie l'interezza della sua personalità, iscrivendola in piena luce nella storia lesbica e contrastando il negazionismo patriarcale. C'è inoltre un altro aspetto che è importante sottolineare. È paradossale e insieme significativo che siano soprattutto i rapporti segreti dell'FBI a far emergere una realtà di connessione profonda tra donne in lotta, in una vicenda epocale che è stata trasmessa dalla storiografia dominante quasi come una storia di poche eroine isolate e che invece ad un'esplorazione più accurata si rivela essere tutta un'altra storia. Judith Schwartz, che ha attentamente studiato il gruppo femminista radicale di New York dell'Heterodoxy, attivo dal 1912 al 1940 e fondato da Marie Jenney Howe, scrive: «Non avevo capito che tante donne fortemente impegnate nella politica durante la storia americana dell'inizio del XX secolo non soltanto si conoscevano l'una con l'altra, ma si erano frequentate intimamente per anni. Discutevano sui temi in cui erano impegnate, pensavano insieme e imparavano molto dalle reciproche esperienze personali e politiche». Invece, nella mia precedente lettura della storia delle donne americane, ero stata indotta a considerare ogni singola donna come se lavorasse nell'isolamento dalla maggior parte delle altre donne, come se fosse la prima nel suo campo, oppure come se la come coinvolta in movimenti politici o lotte fuori dal movimento per il suffragio. L'accento, nei libri che avevo letto, sembrava essere sugli uomini con i quali avevano interagito, non sulle donne che le avevano sostenute o influenzate. A New York, come altrove, si trattava di un movimento interrazziale, intergenerazionale e multiculturale che comprendeva donne ebree, irlandesi, afroamericane, donne di varie età, classe, etnia, sessualità, educazione, sia lesbiche che eterosessuali, non ortodosse. A questo movimento, i cui aspetti rivoluzionari ancora oggi appaiono estremamente attuali, Marie Equi appartenne con lo slancio di una utopia che con la sua vita ha contribuito a realizzare. Beh, devo dire che un enorme ringraziamento va a Rosanna Fiocchetto, che è bravissima ad andare a ricercare queste storie, queste biografie, e poi chiaramente a Fuoricampo, che ha reso possibile la sua pubblicazione, no? E io adesso direi che possiamo ascoltare una bellissima canzone di Mia Martini, dolcissima, In una notte così. Questo teatrino meccanico, so bene che quando si è soli si dice sempre qualche bugia, si cena sperduti nelle cronache regionali e ci si sente una spia, che poi si vorrebbe ci spinge a comprare stravaganti dolciumi. con noi. Non si sa, direi io sul microfono. E dedichiamo questa canzone a Elena che oggi è in studio qui con noi. E ci fa sempre molto piacere averla qua. Allora, proseguiamo la nostra trasmissione. Io mi sto impicciando con tutti i mixer, con le musiche e via dicendo. Allora, aspettate un attimo e fatemi pensare. Questo no e questo. Ok, ci sono. Una biografia come quella che abbiamo letto non può non aver suscitato qualche considerazione. Io vi prego di inviarcele al nostro cellulare che è 338-4146-682 o anche facendo un trillino qui al numero della radio che è 06-49-17-50 per farci sapere che ci state ascoltando e che state gradendo quello che stiamo mandando. Allora, proseguiamo con la nostra trasmissione. Come vi avevamo promesso, adesso faremo una recensione di un libro che si intitola Pluma a doppio taglio ed è di Lola Vanguardia. Dunque io ho da poco appena finito di leggere questo libro ed è il secondo romanzo che leggo di questa autrice, che ha avuto, almeno per me, la capacità di mantenere buona la sensazione di gradevolezza che si prova scorrendo le sue pagine. Lola Vanguardia ha una capacità particolarissima, quella di farti sentire attratta da ciò che stai leggendo. Magari il caso si ingarbuglia, tutto sembra complicarsi, perciò sei spinta a leggere oltre per scoprire cosa succede. Ed è allora, proprio in quel momento, che Lola interloquisce direttamente con te, inglobandoti tra le letture alle quali pone domande, dà delle risposte o anticipa entrambe le cose. Come se ti leggesse nel pensiero. Frasi come a questo punto l'elettore si staranno sicuramente chiedendo, oppure ora spiego una cosa alle letture che si sono un po' distratte. Ricordate qualche pagina fa quando e lì inizi a raccontare. E ancora, sono sicura che non abbiate la minima idea di dove sia andata Tizia, non è vero? Sono piccoli incisi che ti fanno sentire quasi coccolata e che ti mettono su una poltrona d'onore in prima fila. In realtà tu che leggi, tu lettora appunto, sei arrivata proprio dove Lola Vanguardia voleva farti arrivare. Certamente sono romanzi che non hanno pretese, sicuramente non aspirano ad alcun premio letterario, però di sicuro riescono a farti aprire le pagine con una certa allegria. Essendo gialli non ci si aspetti certo di provare delle scariche di adrenalina o che il pathos arrivi alle stelle, ma certo la storia di Pluma a doppio taglio è strutturata piacevolmente. C'è proprio tutto, una morta, una cattiva, una vittima innocente, un gruppo di amiche, una ispettora, una giornalista, una scrittrice, una medica legale, una barista, due imprenditrici, una disperata, una maniaca del sesso, un commissariato pieno di poliziotte. Ecco, il segreto sta proprio tutto qui. Tutto è al femminile. Persino per aggiustare un tubo arriva l'idraulica. E se nella festa popolare c'è un'iniziativa da guardare, e la festa popolare nella quale si dipana gran parte della storia, l'elemento clou della festa è fatto da un gruppo di ragazze acrobate. Nelle diverse case si trova una cagnetta, una micia, una pappagalla, una pianta di effembacchia e purtroppo un gatto. Scelto però per sbaglio perché scambiato per una femmina ma subito castrato. Anche le macchine, pure quelle sono femmine, c'è una Volvo, una Honda. Leggere questo libro ti porta a vedere con estrema naturalezza una realtà che nel futuro ognuna di noi vorrebbe trovarsi a vivere. Tutto quello che accade prevede una massiccia presenza femminile ovunque: la questora, la vigila, la commessa, la massaggiatrice, la conduttrice televisiva. Insomma, in questo libro l'unico maschio è il gatto, che però è castrato. Inoltre, altra cosa a mio avviso positiva, anche se l'argomento chiave di tutta la vicenda riguarda il riconoscimento delle coppie di fatto, quindi una rivendicazione che non mi appartiene, la cosa bella è che prende elegantemente per il culo tutta la cultura bigotta e omofobica che risulta essere, come del resto è nella realtà, anacronistica e retrograda. Come dicevo, per quel che mi riguarda, il matrimonio gay non è un obiettivo che intendo perseguire, ma riconosco il diritto a farlo di chi crede in questa lotta. Dico solo che io, avendo identificato proprio nella struttura familiare e nel modello di vita che questo impone, la culla di tutta una serie di negatività e di violenze che la donna subisce quotidianamente da secoli. Quindi preferisco pensare a qualcosa di alternativo, qualcosa che mi dia la possibilità di essere me stessa, non ricalcando ciò che non mi corrisponde. Ma al di là di questo, riconosco l'esigenza di una solidarietà di genere, cosa che tra l'altro Lola Avanguardia in questo libro descrive molto bene. E sicuramente riconosco anche la descrizione di quella società patriarcale che non accetta nulla di ciò che si discosta dalla norma data, condannando così a priori tutto quello che si incanala in altre direzioni. Ci unisce sicuramente la voglia di modificarla questa società, ma ognuna di noi con le proprie strategie. Penso che un conto sia combattere qualcosa pretendendo di essere assimilati per dimostrare che tutto sommato non ci sono grandi differenze. Altro è lottare affinché siano ben chiare le rispettive differenze e pretendere che queste non diventino oggetto di discriminazione. Ma torniamo al libro Pluma a doppio taglio di Lola Avanguardia. Se avete voglia di farvi accompagnare per qualche giorno da Eva, Laura, Mati, Tea, Emma e tante altre, leggetelo pure ed una ventata di aria fresca vi inonderà. A proposito, dimenticavo di dire che il libro in questione è edito dal Dito e la Luna, quindi buona lettura a tutte. Adesso ascoltiamo un brano che si intitola Natural Woman e sicuramente riconoscerete la voce, la mitica Aretha Franklin. La solita Caterina Imbranatona. Ho sbagliato disco. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, you made me feel E eccoci di nuovo qui, allora vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio autogestita femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbp.info. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo tutte le donne che ci accompagnano. Sta facendo un macello con i CD. In realtà il problema non sono i CD che non funzionano, sono io che sbaglio con i mouse. Allora, salutiamo tutte le donne che ci accompagnano ascoltando Radio Onda Rossa e la nostra trasmissione, rendendo possibile così la prosecuzione di questa nostra avventura dietro questi liberi microfoni. Se ci state ascoltando via internet ci farebbe piacere sapere da dove. Potete però anche soltanto dare un piccolissimo riscontro alla vostra presenza facendo il graditissimo trillino. Basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa componendolo 06 49 17 50 e noi capiremo che ci state ascoltando. L'altro mezzo è quello dei messaggi, di cui ricordo il numero del cellulare 338-4146-682. Un attimo. È che troppe cose insieme non si possono fare. Tu sei addetta alla console e fai la console. E va, voglio fare più cose. Ecco. Gli appuntamenti. E tra gli appuntamenti vi anticipiamo che il 14 maggio presso la Casa Internazionale delle Donne al Centro Femminista e Separatista in via San Francesco di Sales 1B presenteremo il libro Fuori della Norma. I dettagli sull'orario e sulla strutturazione dell'incontro ve li daremo nella prossima trasmissione. Si tratta comunque di un saggio scritto a più mani e dedicato alla storia alle storie lesbiche del primo Novecento, sesso e divieti nell'Italia fascista, foto segnaletiche, impronte digitali, delazioni e la condanna era il confino. Saranno presenti naturalmente alcune autrici con le quali discuteremo insieme del libro. Un'altra serie di incontri sono stati previsti dall'UDI che da un certo numero di tempo, insomma da un po' di tempo sta facendo questa campagna 50 e 50 ovunque si decida. Lo scorso 21 aprile c'è stata la costituzione del Centro Nazionale di Raccolta nel quale sono state portate tutte le firme che fin qui sono appunto state raccolte un po' in giro per tutta l'Italia. E la raccolta è stata fatta nella sede nazionale dell'UDI che è in via dell'Arco di Parma 15, però ci sono altri due appuntamenti che secondo noi vale la pena di assecondare con la propria presenza. Uno è venerdì 18 maggio perché alle ore 10 ci sarà la consegna in Cassazione della proposta dell'UDI, appunto quella del 50 e 50 ovunque si decida. Ed è previsto un sit-in per sensibilizzare l'opinione pubblica e la stampa a questa proposta. L'altro appuntamento da non mancare, se potete, è sabato 19 maggio alle 11 ci sarà l'Assemblea Nazionale autoconvocata aperta a tutte le donne che condividono l'impegno per la campagna 50 e 50 e la costituzione del Consiglio Nazionale delle Donne. Quindi venerdì 18 maggio la consegna alla Cassazione con un sit-in e sabato 19 maggio la costituzione del Consiglio Nazionale delle Donne. Allora, dal 28 al 30 aprile, inoltre, Arci Lesbica Bologna, in collaborazione con Civive Eventi, organizza la seconda edizione della rassegna cinematografica Lesbica Nitrate Bodies. L'apertura della Tre Giorni di Cinema sarà la serata del 27 al Cassero. Troverete in ogni caso il programma della rassegna alla pagina www.arcilesbica.it. Per sapere invece tutto sulle iniziative ludiche, feste, cene, aperitivi, after the midnight e non solo, che accompagneranno le tre giorni, www.civieventi.it. È uscito inoltre un nuovo libro di Delia Vaccarello, Show, Giovani, Bugie, Identità. Dopo il successo dei racconti di vita dell'amore secondo noi, Delia Vaccarello torna a narrare le esperienze degli adolescenti italiani e grazie alla matita di Giulio Argnani le trasforma in fumetti. Incontri di una sera, prime volte, viaggi, carezze, illusioni, innamoramenti, metamorfosi, ma soprattutto un sacco di interrogativi. Le avventure comprese in questo volume sono uno specchio delle fantasie e dei desideri dei ragazzi di oggi. Sono una raccolta di misteri rigorosamente vietati agli adulti e qui eccezionalmente svelati. A un brizzolato invadente che rischia di profanarli, i ragazzi sbarrano la strada dicendo «show» e si proteggono costruendo muraglie di bugie. Leggerete esperienze di tutti, ma sconosciute, confidate da ragazzi e ragazze via email, al telefono, nel corso di incontri a scuola. Verrete catturati, striscia dopo striscia, dalle immagini dei loro segreti. Allora, se sei d'accordo, io direi di chiudere questa trasmissione, chiaramente in bellezza, con un'altra canzone di Gianna Nannini, che è tratta dal uno degli ultimi CD, che è Perle. Vuoi dire tu il titolo? Amandoti. Che è in tema con la trasmissione di questa sera. E ce la dedichiamo. Ce la dedichiamo reciprocamente a tutte le donne che ci stanno ascoltando. Però un messaggino ce lo potevate pure mandare. Va bene, non fa niente, sarà per la prossima. Il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Non la settimana prossima, no, scusate, perché il primo maggio è festa, sarà in replica l'8 maggio. Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia, che vuoi farci, è la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente, mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora, perdutamente. Amandoti, thank you.